cercarlo dovevo andare giù in profondità, tra le pagine di Stirner nell'unico e la sua proprietà. Pensavo, ma non è lo stesso film che ho visto in Nietzsche già. E invece no, qui il verbo è nudo, niente maschere di oscurità, niente Zarathustra, niente essere, tempo da decifrar, solo un'ideologia scomoda che non si prova a mascherar. Forse per questo non ha avuto il loro stesso nome altisonante, ma almeno i nazisti non l'han toccato con la loro mano devastante. L'unico, senza Dio né bandiera, senza uomini ideali, senza falsa primavera. Sono libero solo se lotto, se prendo, se tengo con le mie mani. Ma dimmi è libertà o solo altro cielo di tiranni. Io, l'unico in un mondo di illusioni, tra diritti, proprietà, sogni e rivoluzioni. È vera lotta contro la metafisica che ci incatena. Un nuovo altare dove l'io diventa Dio e ci avvelena. Parlando in rete mi chiedono questo egoismo dove porterà. È realizzazione di se stessi o l'io che schiaccia tutto ciò che c'è di là. Nietzsche parla di volontà, di potenza, c'è chi la chiama creatività, ma a me sembra spesso un'ipertrofia dell'io che l'altro non lo vuole più guardare. Stirner almeno è più sincero, non gira troppo intorno al punto, flirta con legalismo e la donna ancora sotto, ancora a fondo. E Heider da lontano chiama questa vita in autenticità, come se l'uomo si perdesse in un gioco di ruoli e di vanità. Senza Dio né bandiera, senza uomini ideali, senza falsa primavera. Sono libero solo se lotto, se prendo, se tengo con le mie mani. Ma dimmi è libertà o solo altro cielo di tiranni. Io, l'unico in un mondo di illusioni, tra diritti, proprietà, sogni e rivoluzioni. È vera lotta contro la metafisica che ci incatena. Un nuovo altare dove l'io diventa Dio e ci avvelena. Per Stirner Dio non è morto, non è mai esistito qua. Come gli stati, le morali, le grandi cause dell'umanità. Da Socrate ai liberali, dagli umanisti ai comunisti, non servono l'io che vive, ma i suoi fantasmi idealisti. Dice io sono libero solo da ciò che conquisto e custodisco. Allora l'uomo come ideale, un trucco, un idolo fittizio. E saltano in aria i sacri totem dei diritti umani universali, la proprietà privata, i sogni rossi dei comunisti uguali. E allora chiedi, questo nichilismo che cos'è? Spezza davvero le catene o le lega tutte me? Io, l'unico, senza Dio né bandiera, senza uomini ideali, senza falsa primavera. Sono libero solo se lotto, se prendo, se tengo con le mie mani. Ma dimmi è libertà o solo un altro cielo di tiranni? Io, l'unico in un mondo di illusioni, tra diritti, proprietà, sogni e rivoluzioni. È vera lotta contro la metafisica che ci incatena. Un nuovo altare dove l'io diventa Dio e ci avvelena. Homo homini lupus l'aveva detto già Hobbes tempo fa, Stirner gli dà radici metafisiche. È così che il mondo va. Da una parte critichi il sogno dolce dell'anarcocapitalismo, dall'altra vedi nell'anarchia comunista il figlio adulto dell'anarcoegoismo. Non per partito, programma, non per il logo su una bandiera, ma come esito inevitabile di una lunga lotta interiore sincera. Poi arriva Jung con l'individuazione e l'esistenzialismo che ti chiede chi sei. Stirner sorride e dice non è ideologia, sei tu che coincidi con ciò che devi. Come un uccello che vola, perché ha ali fatte per volare. Non si chiede perché lo faccia, non ha un ideale da adorare. Allora dimmi, esiste in noi una traccia, una predestinazione, un fuoco sacro che arde da sempre indicando la direzione? O è tutto nulla, nichilismo è l'obiettivo, lo scegli tu a tentoni in un mondo finito, non divino, di limiti, errori, occasioni. Stirner ti grida, smetti di credere a ciò che ti possiede. Prendi i tuoi fini tra le mani, vedi davvero cosa vedi. Non essere schiavo delle immagini che hai comprato a rate, dei sogni preconfezionati, delle verità già impaginate. Cerca strade nuove, impara sempre, non dare mai nulla per scontato, perché spesso rincorriamo un sogno vuoto che ci lascia solo stacche steprinati. Dove dovevo vi, chi tu patone non la veda, l'unico se tu se smette di vivere più la vita rutto. Antosa casisa.